A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 4-5 dicembre 2009, assolve entrambi gli imputati dai reati loro scritti ai capi A, B, C e D per non aver commesso il fatto. La confusione dell'aula del tribunale e il silenzio qui di Via della Pergola. Partiti da Perugia, Amanda e Raffaele, lasciato il carcere, gli imputati assolti in secondo grado dall'accusa di aver ucciso Meredith Kercher, restano le polemiche e gli interrogativi di un caso ormai internazionale, mentre le finestre di questo casolare di periferia a Perugia tornano a riaprirsi quasi 4 anni dopo quella notte di Halloween in cui fu uccisa la studentessa inglese. Dopo mesi di sigilli e dopo che a lungo nessuno voleva abitare in queste stanze, da settembre degli altri studenti e 2 pizzaioli stranieri hanno riaperto le finestre che furono di Meredith e Amanda, quando manca ancora una risposta certa sulla morte di quella ragazza. Ma quante sono le vittime di omicidi che aspettano ancora di sapere chi e perché li ha uccisi? E invece quanti sono i sospettati rimasti in carcere ingiustamente e perché? Perché casi in apparenza semplici non trovano altrettante risposte? Da qui, da questo casolare di Via della Pergola di Perugia, con le finestre di nuovo aperte, partiamo per una nuova puntata di A ciascuno il suo. Dicono i vecchi investigatori che un caso o si risolve in 48 ore o rischia di restare irrisolto. Oppure ancora, aggiungiamo noi ora, rischia di finire sull'altalena di opposti verdetti, dove alla fine sopravvivono soprattutto dubbi, incertezze e titoloni di giornali. Questo sembrano raccontare le cronache di alcuni degli ultimi grandi delitti, tra arresti, scarcerazioni, assoluzioni e prove riesaminate dopo anni. In principio ci fu la mamma di Cogne, Anna Maria Franzoni, arrestata 3 mesi dopo la morte del figlio Samuele, il 30 gennaio 2002, fu scarcerata 15 giorni dopo per carenza di indizi. Ma poi, dopo che la Cassazione annullò quell'ordinanza, la donna affrontò tutti i gradi di giudizio, da libera e continuando a professarsi innocente. Nel frattempo l'Italia si spaccava tra innocentisti e colpevolisti e discuteva di pigiama, zoccoli e macchie di sangue. Questo fino alla condanna definitiva a 16 anni, il 21 maggio 2008. Porta la data del 13 agosto 2007, invece, il delitto di Garlasco, l'omicidio in casa di Chiara Poggi, 26 anni. Un mese dopo viene arrestato l'ex fidanzato, Alberto Stasi, incastrato, secondo gli inquirenti, da una macchia di sangue sulla bicicletta. Ma poi altre perizie su quegli stessi pedali, sulle scarpe dell'imputato, come su computer e portasapone, ribaltano il quadro. E il 17 dicembre 2009 il giudice lo assolve, in rito immediato, perché le prove sono insufficienti. L'8 novembre comincia il processo d'appello. Quasi un anno fa, invece, spariva da Brembate Yara Gambirasio, 13 anni, e una morte ancora senza una risposta. Girandole di accuse e sospetti, hanno avvolto da subito il caso di Avetrana, l'uccisione di Sara Scazzi. Prima viene arrestato lo zio Michele, poi scarcerato. In cella quindi finiscono la moglie e la figlia Sabrina. Ma lui, al contrario di altri indagati in casi simili, continua a ripetere la sua colpevolezza. Gente di Perugia, dopo che la Corte d'Assise d'Appello ha ribaltato la sentenza per Amanda Knox e Raffaele Sollecito, imputati per il delitto di Meredith, da una condanna a 26 e 25 anni all'assoluzione piena per non aver commesso il fatto. 2 letture diametralmente opposte da parte di 2 corti e al di là delle polemiche e delle discussioni sull'eventuale pressione mediatica, rispetto al primo grado di sicuro c'è un dato nuovo, una perizia a invertire il corso del dibattimento. Una perizia inspiegabilmente non fatta dai primi giudici, attacca Giulia Bongiorno, avvocato di Sollecito. la prova regina di questo processo era il DNA, eppure era stato negato, devo dire sorprendentemente, quel tipo di accertamento che viene fatto di prassi in tutti i processi. Questa prova del DNA ha potuto accertare che quel DNA che è stato trovato nella stanza del delitto non era attribuibile a Raffaele Sollecito. Infatti i periti avevano parlato appunto di risultati, diciamo, non attendibili, ma secondo lei troppa fretta da parte di magistrati, inquirenti? C'è stata sicuramente una certa fretta nell'attribuire l'etichetta di colpevoli, e poi tutto il resto è stata una sorta di ricerca di conferme di questa premessa. E dall'altra parte anche i magistrati, che chiaramente vivono questa sentenza come una sconfitta, parlano di un peso mediatico eccessivo nell'ultimo verdetto, nel verdetto formulato dai giudici d'appello. C'è stato secondo lei un ruolo anche della pressione mediatica, ad esempio della stampa americana? A me sembra assolutamente ingeneroso nei confronti di questa corte, che è una corte che è stata assolutamente precisa, perché si è limitata poi a fare proprio quel risultato di soggetti terzi. Mi sembra comunque ingeneroso pensare che ci sia stato questo tipo di condizionamento. Quindi è un po' un autogol da parte dell'accusa. Sembra alla gente comune una forma di contraddizione che ci sia un condannato per concorso in omicidio quando cadono le accuse nei confronti di chi avrebbe commesso quell'omicidio. Quindi a questo punto che fare? Una revisione del processo? Innanzitutto la sentenza nei confronti di Rudy Guédé accerta la responsabilità di Rudy Guédé, mentre è stato accertato che c'erano tracce di Guédé nella stanza. Di Raffaele e di Amanda non c'erano tracce, Raffaele e Amanda non conoscevano Rudy Guédé, quindi casomai l'anomalia è nel fatto che si sia ipotizzato la possibilità che tre persone hanno consumato insieme un delitto che nasceva poi da un momento sessuale, tre persone di cui nemmeno si era provata la conoscenza tra loro. Condivide quello che aveva detto il giudice all'Atere, che l'unica certezza è che Meredith è stata uccisa. Non ci sono dubbi che è un processo in cui ci sono state delle incertezze e ci sono stati dei dubbi, ci sono state delle ombre, e soprattutto quello che io credo sia successo è che ci si sia troppo concentrati su Amanda e Raffaele all'inizio. In questo modo non si sono in realtà seguite una serie di piste investigative. Contro quei periti e proprio contro le loro conclusioni punta il dito invece la procura di Perugia, secondo cui giustizia non è stata fatta e il verdetto sarebbe stato influenzato dalle campagne mediatiche, riflettono i PM Manuela Comodi e Giuliano Mignini. Certamente sono entrati, non lo so, forse con una mezza idea di come doveva andare. Per noi i colpevoli sono Rudy Guédé, Amanda Knox e Raffaele Sollecito. È un processo purtroppo con una pressione mediatica inaccettabile e purtroppo con una decisione quasi annunciata, e questo è anomalo. Secondo me gli errori sono dei periti di questa Corte d'Assise d'Appello e dei giudici della Corte d'Assise d'Appello, i veri errori. Uno degli errori clamorosi è l'aver pensato che non c'erano i controlli negativi, e invece c'erano e non se ne erano accorti. Aspettiamo prima di parlare, poi alla fine vedremo se ha ragione la Corte di primo grado o la Corte d'Assise d'Appello, anche perché Amanda è stata condannata per calunnia. E 3 anni è una pena pesante, molto pesante, per la calunnia. Come si fa a scindere la calunnia dall'omicidio? Questo bisognerà che ce lo spieghi. Certo, c'è la Cassazione, che potrà ancora rimettere in discussione le sorti dei due ex fidanzati, ma è lo stesso presidente della Corte d'Assise d'Appello, Claudio Patrillo Hellman, ad ammettere che questa resterà una verità insoluta e che nessuno può sapere come sono andati i fatti, tranne Rudy Guédé. È la missione di una sconfitta, in ogni caso, anche se la difesa dell'ivoriano, condannato per concorso in omicidio, ora valuta la revisione del processo, e anche se la famiglia della vittima, la mamma e i fratelli di Meredith continuano a dirsi fiduciosi. We are still hopeful because there is obviously more work to do here, whether it's finding. Mia figlia non tornerà più a casa, è la semplice constatazione della mamma di Meredith, che gli obiettivi hanno inquadrato impietrita nell'aula del Tribunale di Perugia dopo che la sentenza mandava assolti i due imputati per l'omicidio della sua primogenita. La procura aveva chiesto l'ergastolo per Amanda e Raffaele, i giudici li hanno scagionati del tutto e i parenti della vittima non possono che restare disorientati davanti all'opposta lettura di elementi e indizi raccolti durante le indagini. Chi ha ucciso insieme insieme a Gedè, chiede il fratello, mentre la Gran Bretagna col primo ministro David Cameron si stringe ai familiari della sua connazionale uccisa. Amanda Knox is enjoying her first full day of freedom. Gli Stati Uniti invece, dopo aver a lungo bersagliato la giustizia nostrana, ora scrivono bravi sui giornali e welcome home sulle insegne luminose accese per Amanda. Di sicuro, guardando tutto questo, con la giusta distanza sia da Londra che da Seattle, all'origine c'è quantomeno un'inchiesta con dati non concordi e di sicuro con opposti sostenitori, come successo inizialmente a Cogne e come ripetuto nel caso di Garlasco. A ciascuno il suo. 2639. Tante sono in totale le richieste di risarcimento per ingiusta detenzione pendenti a fine 2010, secondo gli ultimi dati del Ministero della Giustizia. In vetta Napoli, con 666 casi, ultima Campobasso, ferma a zero. In mezzo c'è tutta l'Italia, con Bari ad esempio, con 590 domande per risarcimenti ancora da esaminare. Poi, con notevole distanza, Catanzaro, Reggio Calabria con 173, Roma con 135, meno della metà, Milano 50. Queste sono richieste, alcune accolte, altre respinte, di sicuro però tutte con arresti alle spalle quantomeno controversi. E anche i due ragazzi di Perugia, Raffaele e Amanda, se la Cassazione dovesse confermare l'assoluzione dell'appello, potrebbero chiedere un risarcimento per essere rimasti 4 anni in carcere. C'è stata troppa fretta nel dare subito l'etichetta degli assassini, accusano le difese. C'è stata troppa pressione mediatica, ribattono i PM. Anche se i giudici della Corte d'Assise smentiscono categoricamente influenze esterne. Ma le teme la difesa, ad esempio, di Alberto Stasi, imputato per il delitto di Garlasco? L'8 novembre comincerà il processo d'appello a Milano dopo l'assoluzione in primo grado e riprenderanno anche le discussioni su favorevoli e contrari, come ben sa l'avvocato di Stasi, Angelo Giarda. Io non sono sicuro che questa pressione, direi a volte ossessiva, dei media possa essere ininfluente per giudici che non sono professionali. Insomma, mi riferisco ai giudici della Corte d'Assise, che sono tutte persone assolutamente per bene, ma non abituate ad essere neutrali rispetto alla pressione dei media. La deduzione delle sue parole è che a lei non preoccupa, diciamo, il ruolo di una campagna o di una forte presenza mediatica per la vicenda che lei segue. Ma certamente in qualche misura una pressione particolarmente alta potrebbe in qualche modo turbare la vicenda, ecco. Però una cosa è importante da tenere presente, che forse se gli interventi fossero più professionalmente calibrati sarebbe meglio per tutti, ecco. I famosi e famigerati talk show per esempio, insomma, se... Da una parte chi spera in una seconda assoluzione, dall'altra chi cerca risposte e responsabili per una morte ancora senza un perché, come Rita Poggi, mamma di Chiara, che rivede anche se stessa in quello sguardo interrogativo della madre di Meredith. Solidarietà alla mamma di Meredith, senz'altro. Poi per il resto, la solidarietà, senz'altro, e la speranza... Noi abbiamo sempre speranze di giustizia, questo senz'altro. Forse è qualcosa che la giustizia non sempre tiene così presente, quanto sia importante per i genitori della vittima avere questa risposta. Sì, sì, sì, io gliel'ho detto, io capisco benissimo e sono vicina alla mamma di Meredith, forse io le sono vicina più di proprio perché ho vissuto e sto vivendo ancora una vicenda analoga. Tra un po' ci sarà l'appello, vedremo come andrà a finire. Quando già sembrava dover essere inserito tra i cosiddetti cold case, ossia casi insoluti, una risposta invece è stata data al delitto dell'Olgiata, l'omicidio di Alberica Filo della Torre il 10 luglio del 91. 20 anni dopo, infatti, è stato arrestato l'allora domestico della contessa, Manuel Winston, che ha confessato, ma solo dopo la scoperta di una nuova prova cercata e trovata dai periti del marito, Pietro Mattei. Un ritardo che ha avviato anche un procedimento disciplinare per chi quelle indagini le aveva fatte, mentre il prossimo 7 novembre e poi il 14 il caso sarà davanti ai giudici di Roma con la soddisfazione dell'avvocato Giuseppe Marazzita, legale di parte civile. La vicenda dell'Olgiata è un caso esemplare di mala giustizia dovuta a negligenza degli investigatori. La prova decisiva è quella del DNA. perché è emerso tracce del DNA, del sangue dell'imputato nel lenzuolo che era stato utilizzato anche per strangolare la vittima. Questo DNA in indagini recenti non era stato trovato perché i consulenti che il pubblico ministero aveva nominato non avevano esaminato tutte le tracce, ma solamente 4 su un centinaio di tracce. Noi ci siamo opposti a tutto questo e abbiamo chiesto che le analisi fossero svolte dai RIS di Roma, i quali invece in modo molto competente e attento hanno esaminato traccia per traccia e con estrema facilità a quel punto è venuto fuori un DNA che ha, diciamo, incastrato il responsabile. Era talmente innegabile che il diretto interessato ha deciso di confessare. E lei ritiene che anche nelle prime indagini si sarebbe potuti arrivare a questo tipo di prova? Allora, a questo tipo di prova 20 anni fa probabilmente non si riusciva a arrivare. Il caso comunque poteva essere risolto all'epoca perché in realtà c'era una prova tradizionale ed erano le intercettazioni telefoniche, perché il pubblico ministero dell'epoca aveva sottoposto a intercettazione telefonica Winston Manuel. Il problema è che poi nessuno si occupò di ascoltare quelle conversazioni e soprattutto di tradurle, perché erano delle conversazioni in filippino. Ecco, in quelle conversazioni emergeva in modo assolutamente chiaro che Winston trattava la vendita dei gioielli che aveva trafugato alla vittima. 21 anni dopo è stata emessa la prima sentenza anche per il delitto di Via Poma, l'omicidio di Simonetta Cesaroni, con la condanna a 24 anni per Raniero Busco, l'ex fidanzato. Condannato anche sulla base di una perizia che indicava tracce del suo DNA sul reggiseno della vittima. Lui ora ha presentato ricorso per l'appello e l'opinione pubblica si interroga sul tempo e la sorte di un dibattimento che viene da molto lontano. Dai casi del passato a quelli recenti, sul delitto di Avetrana, l'omicidio di Sara Scazzi, 15 anni e lunghi capelli biondi, si è andati anche al di là delle divisioni tra le fazioni di innocentisti e colpevolisti, tra indizi che non diventano prove, ammissioni ritrattate e poi confermate, grovigli di accuse e smentite, tutto in un'arena pubblica infiammata, tanto che il 12 ottobre la Cassazione si pronuncerà su un'istanza di rimessione, ossia di spostamento per incompatibilità ambientale del processo, dopo che un giornale aveva bandito anche un referendum tra la popolazione sulla colpevolezza di Sabrina, cugina della vittima, ora in carcere, o dopo che sono state lanciate pietre contro la casa del padre, Michele, e appesi messaggi. Il caso, secondo i difensori di Sabrina, dovrebbe essere trasferito a Potenza. Ma se si è arrivati a questo punto, al di là delle reazioni, è forse perché manca un'indagine completa ed esaustiva alle spalle? È la stessa ragione per cui la gente ha urlato in piazza a Perugia dopo la sentenza che ha assolto Amanda e Raffaele? Agli annali della giustizia l'ardua sentenza, ma forse anche questi casi sono figli di un concetto e di un'immagine della donna con la bilancia che da noi in Italia non è certo bendata. E allora ci immergiamo in una rassegna dell'iconografia della giustizia nell'ormai consueta chiusura di A ciascuno il suo con un libro. Questa settimana con Adriano Prosperi, professore dell'Università Normale di Pisa, e col suo saggio Giustizia bendata, edito da Einaudi. Due tradizioni diverse esprimono due idee profondamente diverse della funzione della giustizia. C'è questo simbolo che non passa mai in Italia, è questo simbolo della benda che copre gli occhi della giustizia. Noi abbiamo una giustizia che esalta l'attributo classico della forza degli occhi. Gli occhi vincono rapidamente nella tradizione classica e la tradizione italiana la raccoglie in toto, perfino a discapito della funzione dell'ascoltare. Quando se ne discute all'inizio del Cinquecento nell'ambiente del Mantegna, c'è chi tenta di rivalorizzare l'attributo classico delle orecchie di Argo, e in questo caso appunto c'è questo rimpallo tra un'accusa alla giustizia di non vedere ciò che dovrebbe, il fatto che i giudici si bendano con nuove regole che li astraggono, li allontanano dall'esperienza sociale, e dall'altro la risposta della corporazione e dei giuristi e soprattutto da parte del potere, che si salda intorno all'idea luterana della funzione della religione. La risposta che viene appunto è che il potere, diciamo, deve ignorare l'identità che ha di fronte proprio per evitare la corruzione. È contro la corruzione che la benda costituisce una garanzia, e questo porta alla diffusione sistematica nei paesi protestanti dell'immagine della giustizia bendata. A ciascuno il suo finisce qui. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, radio24.it nella sezione podcast oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, la nostra precedente rubrica, e sul blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.